Sono le 22 e 15 minuti. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, 22.15 come ha detto il nostro speaker. Buonasera a tutti, buonasera da Maurizio Calzavara, buonasera da Rock Wave. In regia il mitico Michele Toson e cominciamo la cavalcata. Buonasera Riccardo Maffoni. Buonasera, buonasera a tutti. Hai fatto un viaggio un po' complicato, ma sei arrivato, quello è importante. È stato un po' travagliato, ma alla fine siamo arrivati e questo è importante. Esattamente, da Brescia, Riccardo viene da Brescia, è un cantatore emergente, hai fatto due album, un terzo quasi finito. Un terzo, ci sto lavorando. Ci stai lavorando. Siamo in cantiere, diciamo. Esattamente. Io sulle note che ho scritto per il nostro sito, ho ipotizzato un momento spenstiano nella tua musica, nel senso positivo del termine. Cioè, il rock and roll praticamente. Cosa dici, Riccardo? Ma io sono cresciuto ascoltando il rock and roll, ascoltando la musica rock, grazie ai miei genitori, perché ero un bambino e comunque i miei mi hanno tramandato un po' questa passione per la musica e Springsteen era uno dei preferiti dei tuoi miti praticamente. È diventato uno dei miei miti, oltre comunque altri cantanti della musica rock, Joe Cocker, i Rolling Stones. Quindi un universo un po' ampio dove ti sei hai preso un punto di riferimento, ma poi hai sviluppato la tua musica, il tuo modo di essere praticamente. Come è nato il Riccardo Maffoni, cantautore, musicista? Ma io ho iniziato a suonare la chitarra, che ho iniziato a suonare a 13 anni, andavo ancora a scuola, alle medie, me l'ha regalata i miei genitori. E ce l'hai ancora, mi pare, aver letto. C'ho ancora quella chitarra perché la conservo gelosamente, è una delle mie preferite. Quando devo scrivere una canzone, la prima chitarra che prendo in mano è quella lì. Esattamente. E già quando così strimpellavo, diciamo, la chitarra, già scrivevo le prime canzoni, così abbozzavo, non erano proprio canzoni, però era così questa voglia, questo sentire dentro qualcosa da trasmettere e così ho iniziato a scrivere le mie canzoni, anche se poi ho cominciato a sviluppare la voglia di suonare la chitarra. Per un certo periodo mi sono proprio ho iniziato a studiare la chitarra da autodidatta, facevo proprio il chitarrista. E così piano piano, sempre scrivendo canzoni comunque, perché ho sempre considerato la musica una cosa molto seria della mia vita, anche se ero un ragazzino, ma io la vedevo veramente come, quando suonavo la chitarra era una cosa seria per me. Esattamente, poi nella tua biografia ho letto una cosa interessante, sai perché te lo chiedo? Perché fra qualche settimana, se tutto va bene, dovremo ospitarlo, si chiama Willie Nile e verrà qui a suonare da noi, ragazzi. Grandissimo. Allora, com'è stato che hai aperto i concerti italiani di Grand Park e di Willie Nile? È uno dei ricordi più belli, perché tra l'altro è successo, ti parlo, era alla fine degli anni 90. Sì, esattamente. E c'era questo tour di Willie Nile, Grand Parker, Joe D'Urso. Musicisti straordinari. Musicisti americani. Questo tour si chiamava New York Songwriter. Mm. E la tappa era Chiari, un paese vicino al mio. E ho avuto l'opportunità di aprire, mi è stato concesso questo privilegio, perché alla fine ero musicista, diciamo che era da poco che facevo il cantautore proprio ufficiale, diciamo così, e ho avuto la fortuna, perché è stata per me una fortuna, di aprire un concerto in questo teatro pieno di gente, soprattutto con un pubblico attento, sai, erano questi concerti organizzati specificatamente in una certa maniera. C'era un pubblico proprio attento a questo tipo di musica rock americana e sono stato presentato, nessuno mi conosceva, ho suonato dei brani miei più delle cover di un rock americano e ricordo perché è stato un successo per me, il pubblico non mi conosceva e ne è rimasto entusiasta. Ti tremavano le gambe? Mi tremavano le gambe, ma a me tremano sempre, poi mi lascio. È bello, andare. Ma che vuol dire una cosa positiva se tremano le gambe, secondo me? Vuol dire che c'è emozione, c'è voglia di fare. Io sono sempre, secondo me questo è vero, è importante. Certo. Sono sempre, sia che vada a suonare sul palco prima di Grand Parker o Willie Nile o in un localino o in una grande piazza, secondo me è sempre importante sentire qualcosa dentro, l'emozione deve esserci. Tu sei un musicista live, assolutamente live, ho letto sempre le note biografiche, PFM e Nomadi, anche sei arrivato, cioè hai presentato, la pripista ai Nomadi e alla PFM, non è mica male quel discorso. Cavoli, è stata, con la PFM è stato nel 99, un teatro a Lumezzane, e ero da solo, sempre con la mia chitarra, e c'era questo teatro pieno di gente, tutti in silenzio, lo ricorderò sempre, perché era veramente prima della PFM, un gruppo in Italia, penso il maggior gruppo del progressive, del rock, cioè, progressive. È sicuramente stato il primo gruppo vero del progressive, assieme ai New Trolls. Sicuramente hanno aperto le porte a questo genere in Italia. Esattamente. E ricorderò, perché io sono salito con la mia chitarra, c'era un silenzio di tomba. Da tomba, perché durante, prima di un concerto, poi suonavo da solo, non è con una band. Non è mica semplice il discorso. E anche, come dicevamo prima, sono tutte situazioni che prima di salire veramente il cuore ti batte a mille. Poi una volta che sei sul palco. Esatto. Ma sono situazioni che ti fanno crescere, però, assolutamente. Cosa dici musicalmente parlando? Secondo me ti fanno molto crescere, al di là del chiamiamolo così, dell'esito della serata, del pubblico. Sicuramente ti fanno crescere, ti fanno vedere, almeno parlando, citando la mia esperienza, in questi casi ti fanno veramente vedere cos'è un vero concerto rock di queste dimensioni. Ricordo anche quando suonavo con i Nomadi, che ho fatto un intero tour. A Novellara si dà più di una volta. Ho suonato Novellar e in più ho fatto tutto il tour europeo, e mi trovavo a suonare in questi palazzetti con 2.000, 3.000, 4.000 persone, e veramente lì ti rendi conto cosa vuol dire salire su un palco, un grande palco, e trovarsi davanti una folla che ha voglia di divertirsi. Certo. Ti fanno molto imparare a stare sul palco queste cose. Benissimo, allora apriamo la finestra su Riccardo Maffoni, cantautore emergente. Il disco che abbiamo preso in considerazione, ho preso Uno Spavento, poi prenderemo in considerazione anche il disco precedente e poi parleremo probabilmente del disco nuovo che farai. Ok. Apriamo la finestra col pezzo che abbiamo scelto, è la traccia numero 3, mi pare, Vorrei sapere. Vuoi dare una spiegazione subito o facciamo dopo? Ma dico solo che l'ho scelta perché è stato il primo singolo di questo album, e allora mi piaceva iniziare un po' così, con questo pezzo. Perfetto, ora ricordiamo un momento il nostro staff, ora il mitico Michele Tosoni in regia, Alberto Prisco che ha organizzato, il nostro direttore artistico, Roberto Baldi che ha curato le telecamere, Agostino che ha curato la fotografia, e la mitica redazione femminile, la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia, che verranno a trovarci fra qualche giorno, porteranno le torte, sei d'accordo Michele? Ok, andiamo avanti, parliamo con Riccardo Baffoni. Rock Wave, l'onda del rock. Gioia, quei colori, sapori, e dimmi addio. già tutto scritto e rimpianti non ne hai, e rimpianti non ne hai. Dimmi che in fondo era già tutto scritto e rimpianti non ne hai. La vita è un fuoco, non è un gioco. Blu Radio. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Allora, ieri sera nelle note che scrivo sempre per i pezzi, Michele lo sa, alle 4 di mattina, no, 4 e mezza ieri sera, Michele, così, sono un po' pazzo, sono un po' pazzo probabilmente, però la pazzia fa bene alla musica qualche volta, secondo sicuramente me. Sicuramente la musica deve molto alla pazzia. Esattamente, ho scritto che questo era un pezzo molto pop, decisamente pop, ben costruito, non sapevo che era il singolo, non l'avevo letto, però io l'ho sentito come un pezzo pop, pop nel senso di popular. Certo. Cosa dici, Riccardo? Ma sì, lo penso anch'io. Tra l'altro è una canzone... ho scritto solo il testo di questa canzone. La musica è stata scritta da Sergio Vinci, che comunque è un autore pop. Infatti, sì, come dicevi, è un autore che ha scritto brani anche per la Laura Pausini, certo, per Neck. Perciò è comunque nel mondo che stavi... Hai percepito bene, hai capito veramente il mondo di questa canzone. E è una canzone che ho voluto così collaborare. Perché quando ho sentito il pezzo sono una persona molto istintiva e stavo collaborando con Sergio, stavamo un po' facendo dei lavori insieme. Quando ho sentito questo pezzo ho scritto il testo di getto, veramente ho sentito la musica e... Cioè avevi sentito prima la musica di Sergio e poi... La musica mi ha trasmesso qualcosa, sai, io penso che anche quando scrivo pezzi miei la musica risveglia qualcosa dentro me e mi fa scrivere. È successo la stessa cosa, solo che la musica non l'avevo scritta io, ma Sergio. È stata una canzone che mi ha emozionato quando sentivo la musica. Ecco perché ho bisogno proprio di questo stimolo. Penso che bisogna provare, come parlavamo prima per la musica dal vivo, prima, certo, dei concerti, ma anche quando si lavora, quando si scrive, penso che bisogna provare delle emozioni per riuscire a trasmetterle agli altri, a chi ascolta. A proprio di emozioni, mi sono dimenticato di citare la nostra manager Sunshine, che se nascosta. Sunshine è qua con noi. Esattamente, se nascosta non si fa mai vedere. A proposito di nascondersi, dobbiamo citare che abbiamo le telecamere che ti stanno inquadrando, quindi sia vedere e sia sentire. Rockway, il nostro sito rockway.altervista.org, potete sentire e vedere stasera, quindi Riccardo lo potete sentire e vedere dappertutto, quindi è cosa questa molto positiva. Molto bella. Ritornando questa al discorso del singolo, vorrei chiederti come nasce un pezzo di Riccardo Maffoni? Come lo crei praticamente? Io scrivo generalmente prima la musica, sì, legandomi un po' al discorso di prima. Ho sempre scritto prima la musica e dopo le parole, anche se in alcuni casi è successo il contrario, però sai, non c'è un metodo. Ognuno scrive un po' come sente, come quel sente, momento. Non c'è una scuola, non, certo, è come imparare a andare in macchina, anche se. Anzi, forse è come imparare a andare in macchina, ognuno può imparare anche da solo. Poi sì, c'è la scuola, certo, c'è il metodo giusto. La scuola sono i live, secondo me. Quello c'è poco a fare. Quello è la scuola e la palestra. È la palestra, sì. E poi scrivere, io scrivo veramente, mi affido molto al mio istinto e molto al mio subconscio, perché penso che a volte ci sono canzoni che scrivo, le lascio lì nel cassetto, diciamo, e riascoltandole dopo qualche mese le capisco molto meglio di quando le ho scritte. Ah, ho capito. Sai, è quasi un lavoro psicologico. Sai, c'è chi dice, Vasco mi sembra che, sì, diceva, scrivere canzoni è meglio che andare dallo psichiatra. Sì. Quasi è lo stesso procedimento, perché ti fa buttare fuori tante cose, a volte positive, a volte negative. Perciò le canzoni sono diverse anche per e questo. Quelle canzoni che scrivi, perché qualcuno le lascia nel cassetto, Che difficoltà c'è a lasciarle nel cassetto e non pubblicarle per motivi tecnici, per motivi diversi? Sai, a volte è un grande dolore, tra virgolette. Sai, si vuole bene alle canzoni, si dice che a volte dicono che le canzoni sono un po' come dei figli. Esattamente, voglio arrivare a quello. Un grosso paragone, però forse fa un po' capire veramente quando scrivi una canzone. È un po' come quando ti chiedono la tua canzone preferita. Io non ho mai... forse magari ho dei motivi per cui mi piace di più una o l'altra, perché magari ho suonato quel pezzo in una determinata situazione, ma non riesco a decidere questa è la mia preferita così a priori, perché per me sono tutte canzoni che le ho vissute. Io quando le sento so perché l'ho scritta. Dopo ognuno la interpreta, la vive. però io so perché ho scritto quella canzone. E a volte nel disco, sai, si cerca di creare un filo conduttore quando crei un disco. Ma magari ci sono dei pezzi che sì, vanno che, un po' fuori tema. Però magari sono dei pezzi che onestamente dici che ti piacciono e vorresti pubblicarlo. Però è successo che alcune delle mie canzoni che ho scritto, che mi piacevano molto, non le ho ancora pubblicate. Ecco, vedi. Però le ho lì. Le ho lì. Dovresti sottolineare una cosa. Tu incidi, almeno fino all'ultimo disco, al penultimo disco, ha inciso per un'etichetta, una grossa etichetta, la Atlantic, la CGD, praticamente la Warner Music, quindi un'etichetta, una major, ma ti dava la possibilità di andare avanti, cioè ti dava dei paletti oppure no, musicalmente parlando? Ma diciamo che non, no, paletti no, non me ne sono ti dava la possibilità di gestire praticamente. Perché alla fine, sai, un artista va anche tutelato, cioè è nel proprio interesse dell'artista, ma anche di chi si occupa dell'artista, di chi lavora. Certo, certo. Cioè, avere successo per me significa anche averlo per chi collabora con me. Certo, chiaro. Perciò io penso che si debba sempre cercare di trarre il meglio dall'artista. Magari a volte non mettere dei paletti, però creare dei punti, dei confini dove l'artista può... Nel quale muoversi aiuta anche l'artista stesso, anzi dovrebbe l'artista stesso a volte crearsi dei limiti. Certo, certo. Perché aiuta molto, e diciamo che io con la casa discografica sono riuscito a gestire bene il discorso, a fare un po' il lavoro che volevo fare, a cantare, a scrivere le cose che volevo fare. Poi c'è sempre anche un lavoro, diciamo, di team, non è che uno... Certo, certo, non è da solo, chiaramente. Perciò, anzi, aiuta, perché sentire un po' il parere di chi lavora con te penso che sia forse la cosa basilare per fare un disco. Non si può fare tutto da soli. Anzi, è il contrario. Quando si fa un disco si deve creare un buon team. Certo, di soprattutto quello. Hai detto una cosa molto giusta. Se apriamo la seconda finestra, abbiamo scelto il pezzo che io ho amato particolarmente questo mese, visto che è andato in onda solo acustico, il programma che va in onda tutte le sere qui in radio dopo una certa ora, e si chiama lo chiamano Charlie Brown. Musicalmente l'ho trovato delizioso, almeno l'inizio molto delizioso, molto accattivante, la melodia che si sviluppa, cresce, ma non cresce in modo violento, cresce in modo normale, lentamente, ma progressivamente. È costante, è un ritmo che cresce, ma resta sempre lì, resta sotto, diciamo. Sì, e poi c'è la melodia, nonostante. Non è una cosa, non è un pezzo che vuol crescere e arriva a un momento epico, diciamo. È una canzone che si muove, lentamente, ma si muove. A me è piaciuta probabilmente. Qualcuno, qualche volta chiedo all'artista, ma perché è stato messo nel posto numero 6, cioè alla metà secca della scaletta? È una cosa fatta così oppure per caso? Ma no, la scaletta va come tutte le cose di un disco. Io sono uno che cerca di ragionare un po' su tutto, dalla copertina, da ogni singolo suono, e la scaletta è molto deve importante. Deve essere così. Come avevi l'idea a te? È molto importante, e ho messo questa canzone a metà perché appunto era un discorso. Io quando vedo una scaletta, ma anche quando ascolto un disco di un artista che mi piace, lo ascolto quasi come se l'artista mi sta parlando. Ho capito. Almeno io, è il mio punto di vista, e mi piace fare la stessa cosa. Certamente. Fare un disco, mettere delle canzoni appunto come se sto parlando con l'ascoltatore. E in quel punto lì sentivo l'esigenza di spezzare il discorso della canzone precedente e entrare con qualcosa di diverso. Sì, allora che è una storia molto particolare, certo, questa. Perfetto, allora chiamiamo tutti Charlie Brown e sentiamo questo pezzo, ok? Allora. Rock Wave, l'onda del rock. Piatti in pizzeria, dormiva agli angoli di città, puliva scarpe qua e là e domandava la carità. Finiva spesso dietro le sbarre, ma non capiva queste strane leggi. Rubava soltanto a quelli che rubavano prima di lui. Lo chiamano Charlie Brown, ma io non lo so quanti anni durerà, io non lo so. lo chiamano Charlie Brown, ma io non lo so quanti anni durerà, io non lo so. Disteso in piazza con un armadietto, raccoglie bucce di pomodori. Questa sera vuole trattarsi bene, chissà dove se ne andrà. Danno una festa sulla spiaggia, una ricca signora compie gli anni. Ci sarà vino e musica per vecchi ubriaconi senza bar. Lo chiamano Charlie Brown, ma io non lo so quanti anni durerà, io non lo so. Lo chiamano Charlie Brown, ma io non lo so quanti anni durerà, io non lo so. Va in vacanza sulla costa, quella che prende il sole a metà, su quelle auto con le ruote colorate e chiusure centralizzate. Si è trovato con un'algerina in un club per ricchi sul lungomare. Ha sfasciato quattro tavoli e due camerini, è finito come al solito nei casini. Così lo han portato in pretura, il giudice ha detto che occhi neri che hai. Charlie ha risposto, guarda bene signore, me ne sto per andare da questa dimensione. Lo chiamano Charlie Brown, ma io non lo so quanti anni durerà, io non lo so. Lo chiamano Charlie Brown, ma io non lo so quanti anni durerà, io non lo so. Lo chiamano Charlie Brown, mi chiamano Charlie Brown, mi chiamano Charlie Brown. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, questo è un pezzo molto bello, ripeto, che a me è piaciuto particolarmente, ma catturato, sai, quelle cose che senti e ti fermi là. Anche gli altri pezzi sono notevoli, però quello mi ha catturato immediatamente. Ma ha catturato, come dicevo, a microfono spento, l'inizio con quella acustica, quel giro acustico di chitarra, quell'arpeggio di chitarra, che poi ha sviluppato un tema, non l'ha sviluppato violentemente, l'ha lasciato andare lentamente e poi è ritornato nel tema base, e quello mi ha catturato notevolmente. Dicevi sempre a microfoni spenti che dal vivo, adesso sei in tour in acustico, cioè da solo praticamente, però quando avevi la band lo sviluppavi in modo diverso, in modo differente. Sviluppavo la canzone a parte il finale solo con la chitarra, proprio per entrare comunque molto quasi folk, diciamo. Sì. È una canzone che potrebbe essere quasi una ballata folk, sì, certo, prendendo le, che so, ispirata, che, se vuoi, alle prime canzoni del Dylan, sì, il songwriter, del storyteller. Certo. E allora era sviluppata una prima parte così, e una seconda parte entrava la band molto, non voglio dire cattiva, però che dava quel senso che dicevi prima tu, questa crescita, però con una band molto elettrica, con una solo finale, proprio per far crescere questa atmosfera della canzone, un po' questa di tristezza. Sì, di tristezza, esattamente. E allora questa canzone, questo arrangiamento era molto caratteristico. Anche questo qua dell'album, secondo me, è molto caratteristico. L'arpeggio lì già ti dà un po', ti delinea dove vuole andare a finire la canzone, sai. proposito di questo, citiamo, se ti ricordi, i musicisti che hanno collaborato a questo disco. Allora, il disco è stato prodotto da Marco Guarnerio, al basso c'era Max Zaccaro, le batterie sono di Francesco Corvino e le chitarre le ho suonate io, la maggior parte delle chitarre, insieme anche a Luca Verde e allo stesso Marco Guarnerio, che era il produttore. Era produttore. All'epoca c'era quella c'era quel team lì e mi è piaciuto anche svilupparlo con un team ristretto. Certo. Mi piace un po', a differenza del primo disco dove abbiamo coinvolto molti musicisti. Questo album lo volevo creare con pochi musicisti, quasi come una band, come sì. Una band che suona e poi decide di... Ma nonostante tutto è stata un'evoluzione rispetto al primo album, sicuramente. Sicuramente sì, ma penso che sia importante per un artista evolversi, nonostante i cambiamenti, nonostante tutte lo scrivere, penso che debba un cantante evolversi, senza... che non significa cambiare. No, significa proprio andare avanti. Andare avanti, se a volte l'artista... tende un po', non dico a ripetersi perché è una brutta parola, no. Però ha un suo metodo e a volte magari sì, forse si ripete, ripete certi passaggi, certe melodie. Ma lo fa inconsciamente. Inconsciamente, proprio, è proprio più che ripetersi, si crea uno stile. Ecco, perché sì, è bello dire ripetersi. La musica è un'arte, è una cosa che emoziona, è un artista crea il proprio stile. Però nel proprio stile penso che ci sia bisogno di andare a scoprire sempre cose nuove, a ascoltare nuovi artisti, nuove band, nuovi suoni. Certo, nuovi suoni. Diretta rockway.alterista.org, quindi ci potete vedere e sentire, e fra qualche secondo il primo pezzo live di Riccardo. Cosa ci fai sentire? Suonerò Felice Sarò. Perfetto. È l'ultimo pezzo del mio secondo album. Del tuo secondo album. Rockwave, l'onda del rock. Oggi che è un gran giorno ed ho voglia di volare, non mi va di starmene chiuso qua. La strada è in fermento, questo già lo sento, là fuori c'è tutta una città. I bambini stanno correndo nella via centrale, arriva il carro delle scimmie volanti. Urla della folla che guarda la parata tra i coriandoli e le stelle filanti. E ho sonno ma non so se ritornerò, ho questa voglia di andare, andarmene con chi non mi ha mai detto sì. E felice sarò anche se non ti avrò. Palco è già pronto, i musicisti sono tanti, sembra quasi una vera orchestra. Una donna molto bella sta davanti a loro, col microfono nella mano destra. Iniziano a suonare, la gente vuol cantare, la gente vuole ballare. Poi tra un bicchiere e una canzone il giorno sta per finire. In un attimo la folla scompare. Ho sonno ma lo so che non dormirò, ho troppo bisogno di andare, andarmene con chi non mi ha mai detto sì. E felice sarò anche se non ti avrò. sì felice sarò, anche se non ti avrò. Sonno, ma lo so, non ritornerò. Ho troppo bisogno di andare, andarmene con chi non mi ha mai detto sì. E felice sarò, anche se non ti avrò. Sì, felice sarò, anche se non ti avrò. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Bravo Riccardo, si vede che calchi le scene. Si sente che sei un musicista che suoni dal vivo, l'anima del rocker è qua. Ringrazio. Stasera proprio in questa dimensione acustica. Si vede, si sente, c'è poco da fare, c'è Philly, c'è pathos, c'è rock and roll sotto. Bisogna essere quello è importante. È importante, importante sentire, almeno io dico sempre che le cose le sento proprio a livello di sangue. Io sono una persona che dice che le cose bisogna sentirle, bisogna averle dentro prima di comunicarle, allora... l'importante è riuscire a capire che cosa sia dentro, perché la gente sente le cose che tu devi comunicare, le sente, c'è il feeling, non c'è niente da fare. Quando uno sul palcoscenico e comincia a suonare, che abbia la chitarra o non abbia la chitarra, non vuol dire assolutamente nulla. Questo è il bello della musica, è il certo. Fatto di arrivare, perché alla gente veramente queste cose è quasi una magia. Secondo me i concerti live sono una sorta di, avviene qualcosa, una magia, perché veramente c'è uno scambio tra pubblico e artista che è qualcosa di magico, è veramente... A proposito di magia, io ho letto sempre, ti devo fare questa domanda, e com'è stato Van Morrison, visto che hai aperto anche... Si sa che Van Morrison è un musicista particolarissimo, scontroso al massimo, è vero oppure no? Ma Van Morrison è... Secondo me è all'altezza della sua fama. Ecco, allora siamo d'accordo. In tutti i sensi, sia come artista che come uomo. Esattamente. Però è uno dei miei idoli e lo so, l'ho letto. Dirò trovarmi veramente vicino, perché nella prima serata di Roma, finito il mio set, mi trovavo proprio a due passi, dal palco, dallo stage, certo. Nel backstage, e lui era là. Era lì, a due passi. Ti dirò, ero emozionatissimo, però era lì, come hai detto tu, col suo modo di essere. Sì. Lui è così, basta. Aveva la sua cupola, sì, certo, che lo proteggeva, certo. Veramente ha questo alone, è vero. E vedi che è veramente una persona che ha un carisma, è incredibile, è veramente incredibile. Ma è vero, la leggenda dice che può suonare 5 minuti come può suonare 2 ore, cioè c'è poco da fare. Ma penso che sia vero, perché in queste due date è già successo, sono che state... lui ha suonato 10 minuti poi se n'è andato, non è mica una novità. Anche nella seconda data di Milano ha finito un po' prima e vedi. Ti dirò che qualcuno dal pubblico non era molto contento di questa cosa, perché sai, a Milano la gente era arrivata un po' in ritardo, perché esci da lavoro a una certa ora, lui aveva iniziato un po' prima, diciamo un po' prima, e ha finito un po' prima. Non so, si vede che era la sera, era così. È molto, va molto a serata, esattamente. Però Van Morrison veramente è un pilastro. Ma ritorniamo a Riccardo Maffoni, io salto come i gamberi e ci fermiamo un secondo al discorso della tua vincita. Tu hai vinto praticamente il Festival di Sanremo sezione giovani. È una cosa molto importante, fondamentale. Importantissima. Come mai sei arrivato? Che pathos hai avuto? Che momento? Cosa ti sei sentito quel momento che hai vinto Sanremo Giovani? Ma la vittoria è stata qualcosa di inaspettato, veramente. Ogni serata era... Ho questo ricordo delle prime serate, che salivo sul palco e cercavo di dare il meglio di me, sempre con questa voglia di non di gareggiare, perché non ho mai pensato di partecipare a Sanremo o comunque anche negli altri concorsi. Te ne hai fatto più di uno concorsi? Ho fatto molto, ho partecipato a Castrocaro, certo, al Premio Ciampi, a Recanati, ma non ho mai partecipato a questi concorsi vedendoli come una gara. No. Perché per me la musica non deve essere una gara. Si suona, si canta, si cerca di dare il meglio, poi capita quel che capita. Ma è perché è la gente che dice che hai vinto qualcosa, certo, ma non hai dimostrato che hai superato qualcuno per qualche motivo. E perciò io ero nei giovani, già essere sul palco di Sanremo è veramente qualcosa di emozionante. Già è difficile arrivare, ci sono le selezioni, tutte queste cose qua. Certo, è già difficile. Già difficile. Sei emozionato quando arrivi là dentro, quando arrivi davanti alle persone del palco, dell'Aristo, e quelle tutte collegate per televisione. Sai. E poi ti trovi veramente su questo palco immenso. Tra l'altro, in quell'edizione l'orchestra, una cosa che a me è piaciuta moltissimo, perché l'orchestra non era sul palco, era davanti. Era davanti. Così il palco era praticamente vuoto, diciamo, certo, che era gigante il palco quell'anno. E l'orchestra era davanti. E una delle cose più belle di quel festival, di quella mia esperienza, è stato sentire l'orchestra, perché io non sentivo dalle spie. Ma non c'erano le spie? Ci però sono le spie, sì, però io mi sono fatto mettere un po' di voce nelle spie. Ho capito. E l'orchestra la sentivo acustica. Cioè proprio dal vivo, come io sentivo davanti. E non ti dico, era una soddisfazione enorme. È un rischio però secondo me, o no? Cosa dici? Ma è un rischio, poi ti dirò, avevo fatto i suoni giusti, non è che questa cosa si fanno varie prove prima, certo, però mi piaceva sentire, c'era talmente volume questa orchestra, calcola che sono 70 elementi che suonano, è una cosa meravigliosa, è come sentire a un concerto veramente, cioè, è come entrare in un teatro e sentire un'opera lirica, è un'orchestra. E allora sentivo questi fiati, questi violini, i coristi, la band, la sezione ritmica. La sentivo tutta da Bello, Dio. Meraviglioso. E io quando lo parlo mi emoziono ancora. Certo. Quella è stata la cosa veramente che mi ha dato una soddisfazione. Da musicista. E il discorso di limitare il percorso a 3, 5, 3, 7, massimo 4 minuti, lo standard sanremese, com'è? Ma quello è una cosa più televisiva che musicale. Esattamente, più televisiva che musicale. Anche se poi mi viene da pensare che i vecchi 45 giri, forse le canzoni addirittura erano un po' quasi imposte, il minutaggio, sì, perché il minutaggio era quello. I minuti erano quelli, lì certo, proprio non c'era. Non c'era più spazio. Dopo. Forse mi sa il primo è stato Dylan che ha fatto questo. Sì, ti ricordo anche un famoso singolo, non so se ti ricordi, American Pie, Don McLean, durava 9 minuti. Ma sono stati i primi. Hanno sforato. Cose... Di solito il genere era 3-3 minuti, 3-4 minuti. 3 minuti, esattamente. Ma al di là dello standard sanremese c'era emozione, ma tu l'hai vinta l'emozione, sei andato avanti. Cioè i 70 elementi davanti a un'orchestra danno qualcosa, danno molto, secondo me. Ma io dico che l'emozione non è una cosa che deve abbatterti. No, assolutamente. Cioè, a volte si dice sono emozionato. Certo, io quando mi hanno consegnato il premio era veramente oltre me, ero emozionatissimo, ero stanchissimo e non so, mi sono arrivate tutte queste cose insieme e sono rimasto veramente senza parole. Certo. Però penso che fa parte del gioco, bisogna accettare l'emozione, bisogna accettare, se vuoi fare cantante, devi trovarti davanti a un pubblico come di 100 persone, come 9 milioni, 10 milioni, devi essere pronto a questo. Esatto, il pubblico è sempre quello. Giusto, tu devi dare sempre il meglio. È vero, sono d'accordo con te, che siano poche persone, siano tantissime, milioni di persone, devi dare sempre il meglio. Devi cercare di dare il meglio, è quello in base alla situazione che stai vivendo. Tu stai dando il meglio qua dentro, noi siamo in 3-4. Io sto cercando di dare il meglio. Ma sicuramente stai dando il meglio, assolutamente. A proposito di meglio, poi suoniamo un altro pezzo adesso. Ok. E cosa vuoi sentire? Cosa vuoi suonare, scusami? Ma mi sposto. Anch'io faccio un salto indietro, visto che stiamo parlando del primo album. Certo. Io vado ancora più indietro, perché il primo singolo del mio primo album era stato Viaggio Libero. Perfetto. E allora la canzone che andrò a suonare adesso. Rock Wave. L'onda del rock. Troppo distanti, una suora che mi striscia davanti e un cane parlante. 20 figlie offese sul vagone di un grande treno francese e un nano danzante. E poi romanzi senza un racconto, asciutti come pesci di porto e un uomo lampione. Donne in fila sulla statale, un autocarro dietro un funerale e un gatto stregone. E questo e altro ancora passava sui miei occhi e io raccontavo che ho fatto un viaggio libero, ho il cuore di uno zingaro, ho fatto un viaggio libero, ho il cuore di uno zingaro, ho fatto un viaggio libero e ho raccontato che, ho raccontato che. Sette ballerine tedesche, una jeep sotto un albero di pesche vicino al parcheggio, seduta su una staccionata una signorina tutta colorata mi lancia lo sguardo. Il suo uomo con scarpe verniciate mi si avvicina con le mani alzate, grida ho vinto un miliardo. E questo e altro ancora passava sui miei occhi e io raccontavo che ho fatto un viaggio libero, ho cuore di uno zingaro, ho fatto un viaggio libero, ho cuore di uno zingaro, ho fatto un viaggio libero e ho raccontato che Radio. Sono le 22 e 59 minuti. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Diretta rockwave.alterdista.org. Potete vedere e sentire la performance acustica, ma un'acustica rockettara di Riccardo Maffoni stasera. Bravo, complimenti Riccardo. Hai dato un tocco rock anche a questo pezzo, decisamente, secondo me. Ah, sicuramente forse lì. Sei un po' stanco per quello che hai dato. Dopo. No, sai che appunto si chiama live. Si chiama live, in inglese, per però sarebbe musica dal vivo. Certamente, live è bello perché così. È bello viverla proprio nel vero senso della parola. E stiamo vivendo tutti grazie a te stasera, decisamente. È importante la musica, bisogna viverla, come tutte le cose che si fanno. Adesso ti chiedo una cosa, fra qualche secondo partiremo col gioco. Ok. quello dei 5 dischi da portare su un'isola deserta, ma interessava una cosa a chiederti: il discorso del ciclismo di Marco Pantani. Allarga. Allora, quel pezzo, il discorso che parte dalla canzone, appunto, Uomo in fuga. Esattamente, ci Uomo in fuga. A questo discorso. Come mai hai avuto l'idea di fare questo pezzo per Marco Pantani? Sai, la cosa curiosa, che ci tengo sempre a dirla perché è veramente una cosa curiosa, la canzone Uomo in fuga non è stata scritta volutamente per Marco Pantani, ma è stata una canzone che era contenuta nel mio primo album. Tra l'altro, se vogliamo aggiungere qualche particolare in più, certo, l'album è uscito esattamente il giorno prima della morte di Marco Pantani. Ecco qua l'album, vediamo se con la telecamera lo facciamo vedere. Vedi? Sì, ok, perfetto. Questo qua si chiama Storie di chi vince a metà. A metà. Benissimo. E mi ricordo perché l'avevo presentato, ero a Novellara. A Novellara. La sera era il mio disco usciva, io ero anche ospite quel giorno, era un venerdì. Ero ospite del premio Augusto D'Aolio a Novellara, certo. Ospite dei Nomadi. Dei Nomadi. Anche lì davanti a questa folla immensa, sai, i Nomadi hanno un seguito enorme. È un mare di gente. Esatto. E il giorno dopo è morto Marco Pantani. La storia con questa canzone nasce attraverso la collaborazione con la fondazione Marco Pantani e più che altro penso con la famiglia, perché giustamente chi detiene un po' gli onori di Marco, chi ha in mano un po' tutto quello che è rimasto di Marco è la famiglia. Certo. E la cosa è che la cosa veramente curiosa di cui sto accennando il punto è che i genitori, leggendo il testo hanno rivisto le ultime fasi della vita, le ultime fasi più tristi, diciamo, della vita di Marco Pantani. E allora è nata questa collaborazione. La canzone è diventata l'inno della Fondazione Marco Pantani. Abbiamo donato i diritti della canzone alla Fondazione. Abbiamo girato anche un video. Ci hanno concesso di usare delle immagini di Marco. Di Marco, praticamente. È stata una cosa veramente che mi ha toccato molto, perché veramente è stato un personaggio. Penso che negli ultimi anni è riuscito a nessuno. È vero, è vero. Al di là di tutte le cose scritte, non scritte, fatte, non importa. È stato comunque uno di quei personaggi che ogni tanto nella storia ci sono dei personaggi che arrivano e uniscono tutti. È un po', sai, un po' come quando l'Italia ha vinto i mondiali. Certo, non esistono esatto. più i milanisti, gli interisti, gli juventini. Siamo tutti italiani. E lo stesso è successo un po' con Pantani. Eravamo tutti diventati tifosi di Pantani, perché era l'Italia che andava all'estero, vinceva, era l'Italia nel mondo. E il fatto di legare la mia canzone a questo tragico fatto, però con questo seguito, questa fondazione che raccoglie fondi per far beneficenza, veramente mi ha riempito di orgoglio, veramente. È stata una delle fasi più importanti della mia carriera. Certo, lo so che adesso sconvolgo la scaletta che abbiamo fatto, però se Michele è d'accordo passiamo al disco di Riccardo Maffoni, cioè il primo, con la traccia numero 7, così lo sentiamo questo pezzo. Cosa dici, Riccardo? Giusto. Così ci facciamo un'idea anche musicalmente, okay, che pezzo era. Infatti. Ok, quindi sì, musicalmente l'hai scritto il giorno prima della morte di Pantani. No, era uscito il giorno prima. Scusa. Era un album, scusa, era una canzone che avevo scritto per quest'album. Una canzone che parla di appunto uomo in fuga. È un uomo in fuga, esattamente. In fuga, il ritornello dice in fuga dal nulla. Perché alla fine, sai, parla di questo. Quando non era stata scritta per Pantani, parlava un po' della voglia di fuggire dai mille problemi, anche se a volte non si sa da cosa si sta fuggendo. Però è solo l'importante, sai, è andare. Perciò questa canzone riassumeva un po' questo concetto. E l'abbinamento con Marco calzava a pennello, proprio appunto nell'ultimo momento della sua vita, quando cercava forse di scappare da tutte queste brutte cose che gli sono arrivate, e alla fine poi. Alla fine se n'è andato e noi comunque lo ricordiamo sempre. Certamente, adesso lo ricordiamo noi ancora giustamente un'altra volta con questo pezzo. Rock Wave, l'onda del rock. Mezzanotte di una domenica di luglio, partivo in seguito a paura un grande sbaglio, luccicava quella strada bagnata, la mia mente confusa e nebbiata. Avevo dei soldi rubati a un amico, un motivo in più per il quale mi facevo quasi schifo. Ma la vita a volte è anche questo, è solo che io non ci resisto. Sono un uomo in fuga dal nulla, in cerca di gloria ma forse neanche di quella. Sono un uomo in fuga da sempre, ma la mia urla non si sono spente, ma la mia urla non si sono spente. Dentro uno stupido bar per far passare il tempo, sento, non che qualche cosa sia cambiato, non che il peggio sia passato, ma bisogna sotterrare le angosce, quella resa che nel cuore ti cresce, perché anche l'ultimo dei perdenti non vive solo per i suoi lamenti. Che piango e solo rimango, solo rimango. Non mi sentite che piango. Sono un uomo in fuga da nulla, in cerca di gloria ma forse neanche di quella. Sono un uomo in fuga da sempre, neanche di quella. Sono un uomo in fuga da sempre, ma le mie urla non si sono spente. Sono un uomo in fuga. Da, da, da, da. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, adesso siamo un po' leggermente fuori di tempo, ma cominciamo i soliti nostri 5 dischi da portare su un'isola deserta. A okay. Tuo piacimento. 5, lo so che sono pochi, però i tempi sono quelli, dobbiamo sceglierne solamente 5. Che non è l'isola dei famosi dell'avventura, questa è l'isola, okay, di Rock Wave e basta. Ma come hai detto tu, è vero, cioè, sono pochi 5, però su un'isola deserta si può passare il tempo. Io ad ascoltare, mi porterei qualcosa dei Rolling Stones del periodo fine anni 60, qualcosa, Sticky Fingers. Ah. Hai parlato di un capolavoro, è un assoluto, classico, però sono quegli album che si ascoltano. Capolavoro anche dal punto di vista grafico, visto Andy Warhol, quella creazione incredibile. Che è già... una copertina unica, nessun altro ha fatto una copertina di quel genere. Sticky Finger, l'album della rinascita dei nuovi Rolling, quel periodo là. Infatti, etichetta loro, tutte queste robe qua. Era la nuova formazione. Esattamente, sono sdoganati dalla Decca, eccetera. Quindi sono i nuovi Rolling per quel periodo. Era veramente un album che ascolto da non so quanti anni, perché ho iniziato a ascoltare, ragazzi. Michele ha scelto un pezzo proprio bel mosso dei Rolling. Start me up. Che va sempre bene. Va sempre bene. I Rolling Stone va sempre bene in ogni caso. Sì, io lo ascolto a volte quando ho un momento così, mi sento un po' giù, sai. Fa tirare sul morale. Metto una cassetta dei Rolling Stone, sì, e mi metto a battere il piede, prendo la chitarra e via. Sì, tira sul morale, assolutamente. Ti danno proprio quella carica. Certo. Poi numero 2. Numero due metterei, perché è una delle prime cose che ricordo di aver ascoltato, come ti dicevo prima, grazie ai miei genitori. Certo. Io ascoltavo una cassetta di Joe Cocker. Ah. Il Joe Cocker di Busto. E allora forse mi porterei questa cassetta di With a Little Help from My Friends. Disco per ricordare epocale, la mia infanzia. Un disco, è un disco epocale. Lui sono classici, però. È un classico. Classici, ragazzi, le cover come le faceva lui, almeno quella era una cover straordinaria. Io ascoltavo questa musica, perché ti parlo metà anni 80, ero un ragazzino. Però mi affascinava tantissimo, le cassettine di mio papà mi affascinava tantissimo, non sapevo neanche che faccia aveva Joe Cocker. Sì, ma io sentivo quella voce così grossa e questa forza e io passavo i pomeriggi a ascoltare. È un grande, cioè hai rimesso a posto Guido e Little from My Friend, è un pezzo storico dei Beatles, ma Joe Cocker gli ha dato un brio, gli ha dato... E poi c'è questa canzone che veramente ha dato la sua immagine, vero? Quando l'ho vista a Woodstock è stata lì ho capito veramente quello che ascoltavo quando ero piccolino, quando ho comprato la videocassetta di Woodstock. Allora ho visto, capito? È questo Joe Cocker. Era grande Joe Cocker. Bene. Poi sicuramente di Springsteen. Quello che vuoi di Springsteen. Di Springsteen veramente. Lo Springsteen inizio carriera, lo Springsteen fine carriera, cioè fine carriera di adesso, lo Springsteen di mezzo, come vuoi. Ma di Springsteen mi piace un po' tutta la sua discografia. La sua discografia. Forse ho apprezzato di più i primi album, il primo periodo. Forse The River è un album pensavo anche io a The River, Independence Day, quel pezzo io lo trovo meraviglioso. Un po' sintetizza molto l'essere il mondo springsteeniano, secondo me. Certo. The River è un album doppio, mitico doppio album, un album difficile come Darkness on the Edge, più che un album un momento difficile. Certo. Che aveva avuto col suo ex manager. Certo. E quest'album l'ha pompato, è stato primo tour in Europa non so io quando ho scoperto Springsteen, l'ho scoperto tramite Born in USA, però quell'album lì Michele ha messo anche Born to Run, un altro mitico, questo sicuramente è il suo capolavoro, penso. Sì, esattamente. Però sai, a volte i gusti sono diversi, nel senso magari non è la cosa bella, è bello ciò che piace, e magari certo. Obiettivamente qualcosa che è più bello può non piacere. Ma Springsteen è bello tutto, da Nebraska, il brano più scuro, più tenebroso, più semplice, più sofferto, ai brani più solari, Springsteen è bello tutto. Sono sempre stato un amante di Springsteen, come di Bob Dylan. Ecco. Che ho scoperto forse grazie a Springsteen, perché lo citava sempre. Tu sai benissimo che... Quante persone, quanti critici hanno scritto il nuovo Dylan. Springsteen è stato soprannominato il nuovo Dylan, ma lo era veramente, fino a, chiaramente, in determinati punti di vista, era forse l'unico nuovo Dylan. Poi ce ne sono stati altri, però lui era più bravo. Sicuramente aveva unito un po' le voci, sì. Come ha fatto Bob Dylan nei primi anni. Anche come i testi importanti. Infatti ha riunito il coro di tutte queste voci della gente, che se la gente ha sempre bisogno di questi personaggi, e Springsteen ha fatto quello che aveva fatto, diciamo un po' così, certo, quasi volgarmente, ha fatto quello che aveva fatto Bob Dylan negli anni 60, esatto, soprattutto con questa canzone, certo, un po', che è il suo inno. Il suo inno. Quindi quello porterei anche di Bob Dylan. Qualcosa di Bob Dylan. Tanto, non so, è un po' difficile scegliere. Dylan ho cominciato anche a ascoltarlo perché è sempre stato ritenuto il cantautore. Sì, il cantautore con la C maiuscola. Proprio, era lui. E Dylan e basta. E allora mi affascinava poi questo... È un personaggio veramente dalle mille... Mille facce, tante facce. Sicuramente è un camaleonte. Sì, un camaleonte, assolutamente. L'ultima faccia è quella di Natalizia. Cosa ne pensi del disco Natalizio che ha fatto qualche mese fa? Ma mi ha divertito. Ti ha perché divertito? Penso che lui si sia divertito a farlo. Sì, sicuramente. E poi era anche in beneficio. A parte del disco, credo. Infatti l'ho visto dal vivo gli ultimi anni e lo vedo che si diverte molto. Sì. Ho imparato a conoscere Dylan come un musone, invece gli ultimi anni lo vedo suonare il pianoforte e ridere veramente come un ragazzino. Tu lo sai sicuramente che quando viene sul palco i suoi musicisti non sanno assolutamente mai cosa vuole suonare. Non sanno assolutamente mai. Bene, Michele ha messo un pezzo di Dylan. Ha messo un pezzo molto, molto bello. Questo è dall'ultimo album. Sì, dall'ultimo album, è molto bellino. Non sanno mai niente. È difficile. È vero. Non sanno mai assolutamente però niente. Infatti, si vede che non sanno, perché sai quando finisce la canzone sono lì tutti a guardarlo. È vero, è vero. E lui è il cantautore, il songwriter per antonomasia. Per antonomasia. C'è poco da fare. È lui e basta. lui può fare qualsiasi cosa. Sceglierei un classico anche qua, perché l'ho ascoltato milioni di volte. Milioni di volte quando avevo ancora registrato. Avevo ancora registrato la cassetta e mi piaceva ascoltarlo sulla cassetta. Era Highway 61 Revisited. Uno dei grandi classici. Mi piaceva ascoltarlo. Sì, ha fatto tante cose. Poi leggevo i testi di queste canzoni, veramente erano visionari. Proprio, sì. La sua poetica è molto. Rispetto alla prima, del primo periodo, chiamiamolo di protesta, anche se poi ha cambiato faccia dopo pochi anni. Certo, ha cambiato molto. Invece questi testi lo chiamavano il profeta elettrico, c'era stata la svolta. Sì, poi c'è stata la svolta e tante contestazioni per la svolta elettrica, la svolta acustica. Però lui è andato avanti. È troppo affascinato Bob Dylan. Quindi dopo Dylan? Allora, hanno scelti tre? Sì, mi pare sì. Quattro. E ce n'è ancora uno. Sceglierei qualcosa di italiano. Benissimo, a tuo piacimento. Qualcosa di Lucio Battisti. Perché è il Dylan nostro, dici? Perché lo vedo molto vicino a Bob Dylan. Il Dylan nostro, il Dylan italiano. Anche qualcosa del primo. Del primo periodo. C'è una raccolta, io porterei questa raccolta che riassume un po' i primi anni. Per una lira, da Per una lira a fino a... anche Supermarket, questi album, quest'album un po' strano, un po' rhythm and blues. Beh, poi rhythm and blues un po' difficile, ma difficile alla Battisti, con tante cose che poi sono andate avanti nel tempo, sono sviluppate. Sì, infatti, perché lui ha portato avanti questo discorso, certo. Però era iniziato era quasi rhythm and blues. Battisti faceva quasi rhythm and blues, addirittura a volte era folk. Sì, anche Un'avventura è un pezzo rhythm and blues, se vogliamo. Come giustamente Michele ha scelto, è proprio un pezzo rhythm and blues. C'è poco da fare. È stato cantato infatti insieme a Sanremo. C'è stato questo duetto con Wilson Pickett. Più rhythm and blues di lui, non se ne altro, chiaramente. Io sceglierei questo perché veramente ascoltando questa raccolta si sente una passione, veramente. Risento quegli anni lì. Certo, poi lui era molto 60 in Italia, c'era questa voglia di novità. Sì, esatto, però diciamo giustamente come tu hai detto, era molto avanti anche nelle costruzioni sonore, Battisti, molto avanti, certi arrangiamenti, diceva l'organista di Formula 3, il tastierista Lorenzi, che abbiamo intervistato ieri sera, che Battisti aveva delle concezioni musicali molto avanti rispetto al periodo. Sicuramente, infatti è per quello che ha avuto questo successo. E onestamente, ascoltando i suoi pezzi in radio, sembrano canzoni fatte ieri. Cioè, ci sono dei pezzi ma anche del periodo più avanti, Una donna per amico, Si viaggiare, in questo periodo elettrico, quasi dance, ci sono degli echi alla dance, certo. Veramente sembrano canzoni fatte... fate oggi da poco tempo, sì. Era questa la sua forza, esattamente, era proprio questa. Benissimo, questi sono i 5 dischi, ce ne sarebbero tanti altri, però sì, abbiamo racchiuso un po' i, diciamo, classici, perché sai, se su un'isola deserta voglio di classico, qualcosa che mi riporti veramente nel senso positivo del termine, vero. A proposito di classico, adesso ritorniamo dal vivo, quindi ritorniamo alle 23:18 e ritorniamo a suonare, Riccardo, quello che vuoi. Allora, faccio un pezzo dell'ultimo album che si intitola Tornare a casa. Benissimo. Rock Wave, l'onda del rock. Troppo silenzio qui, non lo sopporto, esco a fare un giro, trovo un amico, beviamo qualcosa insieme, non è che serva molto, ma sai com'è? Mi libera la mente parlare di tutto e niente, far passare la serata. E poi tornare a casa con lo stesso dubbio la stessa paura che forse hai sbagliato tutto e non c'è più tempo per riparare e sentirsi come un bambino che non può giocare. È da un po' che ci penso a quello che ho, a quello che ho perso, a chi mi vuole ancora bene. Ho una famiglia che mi sa capire, ho un lavoro che mi fa spiegare quello che ho dentro e che vi voglio dire. E poi tornare a casa con la stessa voglia di andare avanti, perché c'è sempre tempo per recuperare, per non mollare e sentirsi come un bambino che non smette di giocare. E poi tornare a casa con la stessa voglia di andare avanti, perché c'è sempre tempo per recuperare, per non mollare e sentirsi come un bambino che non smette di giocare. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Bravo Riccardo, gli hai dato una colorazione intimista questo pezzo qua. Questo che è giusto che sia così. Infatti è una canzone tratta dal mio secondo album, certo. Preso uno spavento, è una canzone intima, perché quando la presento dal vivo dico sempre che è una canzone che parla di valori. Ecco. Infatti tornare a casa, sai, ma non in senso casa come quattro no. mura, casa come una famiglia, delle persone con cui stare, dei valori su cui fondare la propria vita. Allora questa canzone la vivo sempre così, in questa maniera, appunto tornare a casa, dove sai che c'è qualcuno che ti vuole bene. Certamente. A proposito di questo album, ho preso uno spavento. Tu hai detto, quando uscì, cioè nel giugno del 2008, e per me è qualcosa di più che un ritorno, è una sorta di nuovo inizio. Sì, è stata, sai com'è, venivo da Sanremo. Sì, chiaramente. E poi dopo Sanremo c'è stato un anno nel quale sono cambiate un po' di situazioni. Ho cominciato a lavorare con il mio attuale manager, Raffaele Checchia. Certo. E con Sunshine, che stasera che è qua. Che stasera ci segue. È iniziato appunto un nuovo percorso. Che va avanti ancora, chiaramente. Che va avanti, certo. È l'evoluzione di cui parlavamo prima, proprio. Certo. Però il fatto di aver partecipato a Sanremo e fare un disco nuovo era sicuramente qualcosa che si staccava. Questo disco ha creato un po'... si è staccato un po' da tutto quello che era successo prima, forse perché partecipando a Sanremo, arrivando un po' a tutta questa gente, la mia consapevolezza di quello che sto facendo, di quello che sono, di quello che voglio fare, forse è aumentata ancora di più. E questo album veramente l'ho vissuto in questa maniera. Ogni album bisogna viverlo sempre dando importanza a tutto, come dicevo prima, io soprattutto importanza veramente a qualsiasi cosa che si trova nel mio CD. Però questo qua l'ho vissuto veramente, ok, è successo tutto questo, ora ho imparato veramente tanto e voglio metterlo in questo disco e voglio partire con tutte queste energie nuove che ho. Certo, queste energie nuove le hai sviluppate in questo Ho preso uno spavento, adesso stai esaminando, stai controllando, stai costruendo un nuovo disco. Io ho letto nella biografia che avevi 60 pezzi scritti per Ho preso uno spavento, ne hai scelti 11 e gli altri 50 possono essere riconducibili al nuovo album oppure no? Ma sì, sì. Ci sono, è un po' il discorso che facevamo prima. Sai, non è una canzone si scrive e la canzone se non finisce pubblicata comunque resta lì. Resta là, non pronta è che una canzone, per essere sviluppata. Non è che una canzone si butta. No, si butta mai non niente. Si butta mai niente. Assolutamente no. Certo, certe canzoni possono... le ascolto dopo anni e dico veramente questa non uscirà mai da casa mia. Deve restare qua. Però ci sono tante altre cose che le riascolto e veramente le vedo in un altro modo. Le capisco meglio, capisco veramente quello che volevo dire. E magari lo correggo, cambio qualche parola, cambio qualcosa nella melodia e finalmente finisco la canzone, perché a volte una canzone può sembrare finita, certo. Invece magari è qualcosa che non hai, è come un quadro ma non ha ancora fuoco, hai solo abbozzato un disegno, però non riesci, tu stesso non riesci a capire cosa stai veramente facendo, allora hai bisogno di pensare un attimo, lo lasci lì e il giorno dopo... Ah, ho capito cosa stavo facendo, solo che in quell'attimo eri talmente... A volte sei talmente preso da quello che stai facendo che non ti accorgi. E l'importanza del manager, del team, della produzione ti dà una mano anche per scoprire le ultime cose, le cose che devi sviluppare adesso. Questo sicuramente. Io ho un rapporto col mio management, con Raffaele, con Sani, veramente splendido. Siamo persone... mi confronto sempre con loro su qualsiasi cosa. Perché è molto importante per un artista avere anche... quasi un riferimento, sì, un punto di riferimento esattamente, perché ti aiuta molto, ma in tutte le cose veramente, perché scrivere canzoni è un conto, ma bisogna anche andare sopra un palco, bisogna anche fare delle interviste come certo. Stasera andare in radio, bisogna sono tutte cose molto importanti di questo lavoro, perché alla fine sai, è un lavoro, per quanto la musica sia bistrattata a volte, sì, ma è un lavoro, è sempre stato un lavoro, è sempre una cosa seria, come tutte le cose bisogna fare in modo serio e ti danno dei frutti. Sono d'accordo con te, però in Italia non è considerato un lavoro il musicista, non si sa per qual motivo, dicevano alcuni ragazzi sono venuti qua a suonare tempo fa, che loro sono andati all'estero, e il musicista è considerato in modo diverso. In Italia uno si chiede cosa fa il musicista, perché è un lavoro come un altro. Ma forse in Italia non c'è, anche se nonostante questo io ci tengo a precisare, perché ultimamente sto facendo molti concerti. Diciamo i concerti che stai facendo. Io sto facendo molti concerti, ho girato negli ultimi mesi, praticamente quasi dalla fine dell'estate scorsa che ho cominciato a suonare nei club da solo. Benissimo. E ho girato veramente dal Lazio all'Emilia Romagna, alla Toscana, sono stato in Liguria, la settimana scorsa ero a Trieste. E noto che nonostante se ne parli male, se vuoi, a volte la musica, come dicevi, non esiste il lavoro, perché non c'è la concezione quasi del musicista, ci sono invece molte realtà di appassionati di musica che creano posti apposta per la gente che invece considera certo. La musica un lavoro e ha voglia di ascoltare musica. E questo veramente è bello per chi si trova a suonare a 10 km, a 50 km, a 500 km da casa tua, quando sei in giro, in tour, è bello vedere che la gente ha voglia di ascoltare, voglia di sentire quello che dici. Poi, forse questa concezione del musicista è un po' una cosa, un po' un cliché, bisogna un po' cercare di cambiarlo. Sai, sì. In Italia siamo un po' anche il paese delle contraddizioni. Certo. O sei un idolo o non sei... Non sei nessuno. Ecco, mi hai finito la mia frase. Perciò magari il musicista a metà, nel senso... io faccio il musicista, non vuol dire che devo diventare no. Una superstar, da 50 miliardi di dollari, adesso sto dicendo per caso. Fare musicista significa suonare, insegnare anche, io insegno a dei ragazzi a suonare, per dire. No, io sto proprio facendo un esempio del musicista, vuol dire fare musicista, vuol dire insegnare, vuol dire suonare in un locale. Forse in Italia c'è invece troppo il mito della star, perché la star, sì, vedendo alla televisione le grandi star, a volte si trascura che non, anche chi suona nei locali, chi fa questo mestiere con dignità è un musicista, e tu, è un lavoro come tutti gli, certo, altri. E tu che hai suonato con tante star americane, tante persone, tante star straniere, hai giustamente l'idea, perché con i musicisti stranieri c'è il feeling di essere subito, si suona, non ci sono delle barriere, assolutamente no, si suona, si suona, c'è vero, il feeling. Scusa Van Morris, è un'altra casa a parte. Sì, sì, è un po' casa a parte. Forse però viene anche da una generazione, penso, un po' di, sai, sì, quella, tutti i dischi che ti ho citato vengono da quella generazione, certo. Dove la musica forse è molto cambiato, il mondo della, chiaro, musica, e anche dei personaggi che la facevano, tutta, sai, tutte le storie delle varie star, tra eccessi, sì, vari. Sì, sì, certo. Certo, ci se ne sentono ancora di tutti i colori, perché tra le news di qua e di là ce n'è veramente per tutti i gusti. Però fare musicista è una professione molto seria. Certo. Appunto, quello che dicevi prima, mi leggo un po' al discorso degli artisti stranieri che mi era capitato quando avevo aperto per Willie Nile. Ho questo ricordo che ci trovavamo nel backstage, eravamo io e lui, e Willie Nile non ci eravamo presentati, e non sapeva, stava Chieri, pensando chi sarà questo qua, questo ragazzo con la chitarra, non capiva. Io sono andato lì, mi sono presentato, io gli ho detto che ero l'artista prima di lui, e lui mi ha veramente accolto, mi ha sorpreso, perché era contentissimo, voleva conoscermi, mi ha detto cosa suoni. E questa cosa ma un po' onestamente stupito, perché c'è a volte il mito comunque dell'artista affermato che tra virgolette se la tira. Invece quando vedi queste cose è bello. Alla fine del concerto è venuto a farmi anche i complimenti. Bellissimo. Anche se onestamente devo dire che non mi piace dire sempre all'estero, io anche parlando in Italia ho sempre trovato che i migliori musicisti, i migliori, le migliori persone alla fine sono veramente delle persone umili, molto umili, di umiltà esemplare, e questo è una cosa bella, perché c'è sempre un po' questa cosa di pensare che perché questo artista è arrivato magari non mi degna neanche di un saluto. Invece ho scoperto che anzi è il contrario, questi grandi artisti a volte ti sorprendono, perché si dimostrano veramente coi piedi per terra. Ok, e allora non so cosa vuoi fare adesso, suonare o sentire un pezzo dal disco, a tuo piacimento. Ma sentiamo sentiamo un pezzo? Sì, da che album? Da quello vecchio o quello nuovo? Magari sentiamo dall'album nuovo. Sì, la traccia sentiamo che hai scelto? Sentiamo il pezzo Sono sempre in pista, che è la traccia 5. Bellissimo, sentiamo allora la traccia da 5, da Ho preso uno spavento di Riccardo Maffoni, che è il suo ultimo album, ne uscirà, fra qualche mese ne uscirà uno nuovo, ma intanto abbiamo questo qua. 23:32 Rock Wave dal vivo, diretta a rockwave.altervista.org, ci potete sentire e vedere stasera con Riccardo Baffoni, live, assolutamente live, a Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Ho il mio bagaglio da preparare e qualche affare da abbandonare, mentre la sera scende e la strada è quasi ghiaccio. So che il viaggio sarà lungo e la vita non è un romanzo, c'è chi ha mollato, io ho fatto un patto. Sono sempre in pista, resto nella mischia, sono sempre in pista, questa è la mia. Sempre nella mischia, Facce di chi ti crede un rottame, facce di chi ha fame, le botte si prendono, ho le spalle larghe. Una voce esce dal coro, è solo per farti credere che loro hanno la chiave giusta per ogni tua richiesta. Sono sempre in pista, resto nella mischia, sono sempre in pista, questa è la mia risposta, sono sempre in pista. vita ti sbagli, o darti la luce per capire. Restare a guardare non ti farà durare, è come un lento morire. In punta di piedi sparire. Se c'è cielo io voglio volare, se c'è fuoco io voglio bruciare, il mio silenzio non lo potrete comprare. Resto nella mischia, sono sempre in pista, questa è la mia risposta. Sono sempre in pista, sempre nella mischia. Sempre nella mischia, questa è la mia risposta. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Benissimo, qui abbiamo sentito un pezzo leggermente tirato, come abbiamo detto mentre il pezzo andava a microfoni spenti. Sì, il tirato però che poi sfocia in un ritorno alla melodia e poi ritorna ad essere tirato. È una tua caratteristica? Punto di domanda. Ma penso di sì, è una caratteristica. Lavoro molto di dinamica. Ecco, come di dinamica. Dice, se vogliamo fare i tecnici, sai, sullo spingere, sul calare, sul crescere, che è una cosa, se vuoi, molto a pelle, proprio sentire la canzone, suonarla, ma dare un corpo, dare una vita alla canzone, alle note, magari suonare più forte, più piano. Poi la chitarra è uno strumento molto, a differenza secondo me che so del pianoforte, è uno strumento che lo tocchi diversamente, lo sento più sanguigno del pianoforte. Del piano. Anche se penso che il pianoforte piani abbastanza sanguini. Sia lo strumento più completo, sì, io chiaro. Suono anche un po'... un po' il piano suoni. Mi diverto a suonare anche il piano, anche a scrivere canzoni col pianoforte, però la chitarra penso che sia lo strumento più rock, ecco. Quello che volevo dire è sintetizzato senza dire cose brutte verso altri strumenti. Penso che sì, la chitarra, e penso che non sto dicendo una cosa nuova, la chitarra è lo strumento rock per antonomasia, insomma. Questo nessuno può negarlo. No, perciò la chitarra di Jimi Hendrix è l'icona del rock, è quella. Perciò io mi sento rock e la chitarra è il mio strumento. Ma riesce anche a fare la melodia, chiaramente, nel rock. La melodia è molto importante, perché alla fine penso che il rock sia una cosa molto ritmica, però la melodia, cantando la voce, ha bisogno di avere una melodia. La melodia è quella che ti porta, ti fa viaggiare. Il ritmo ti muove, ti scrolla, ti fa ballare. Certo. Però ascoltando la melodia associata a delle parole ti fa viaggiare. Ascoltando le canzoni da Beatles a Bob Dylan, a Nirvana, ai Pearl Jam, a qualsiasi altro un po' di gruppo, tutto, sì. A Ligabue, a Vasco, le parole ti arrivano al cuore e quando arrivano al cuore non te le porta più via nessuno. A proposito di canzoni, tempo fa tu hai partecipato a un progetto dedicato a un tributo, però non era un disco, era un libro, un tributo a Luigi Tenco. Ce ne vuoi parlare un secondo? Allora, è stata una... quest'opera, questo libro è stato curato da Alberto Ghiraldo, che mi ha contattato chiedendomi se volevo partecipare a questa antologia. Come hai detto tu, la caratteristica è che non era un disco, era un libro. Era un libro, sì. E lui mi ha chiesto... praticamente in questo libro ci sono dei racconti ispirati a delle canzoni, canzoni a dei testi di Tenco. E io mi sono trovato, ho scelto la canzone Vedrai Vedrai, che è bellissima. Io la ricordo la versione di Farida, te la ricordi? Versione di Farida, te la ricordi? No, no, tu sei troppo giovane per ricordartela. No, sei non troppo la ricordo. Giovane. Però era un singolo della era un singolo della Hark, l'etichetta dei famosi della RCA, e Farida ha fatto il suo pezzo di Tenco, Vedrai Vedrai, con una voce strepitosa. Era un singolo, Farida fece solo quello e poi sparì dalla circolazione. Però è un pezzo meraviglioso. Chiuso. Un pezzo meraviglioso, infatti. E io non ho scritto un racconto vero e proprio, perché non riuscivo onestamente a improvvisarmi autore di racconti. Ho scritto una poesia in prosa, diciamo, perché è un po' un racconto, è un po' una storia, però ha la forma lessicale della poesia, e si intitola Dentro un uomo e dentro un bambino. E anche questa è una cosa che l'ho proposta a Alberto, e lui l'ha letta, gli è piaciuta molto. Era proprio ispirata un po' alla melanconia di Vedrai, Vedrai, Vedrai, perché è un po' una caratteristica di molte canzoni di Tenco, soprattutto magari a volte stai pensando a quello che è successo dopo, assumono un colore diverso certe canzoni. E questa canzone era molto toccante, molto, ti arrivava, la sentivi come molto. Dicevamo prima, su quelle canzoni che ti arrivano immediatamente, e le parole ti arrivano proprio nel profondo dell'anima. Certo. A proposito del profondo dell'anima, adesso sentiamo le tue canzoni che ci arrivano ancora 23 e 41. Cosa ci fai sentire adesso? Allora, la prossima canzone che faccio è una canzone che ho riarrangiato ultimamente nei miei concerti acustici. È una canzone contenuta nel mio primo album, Storia di chi vince metà, e si intitola Se saremo vivi noi. Però è una... l'ho rivisitata in chiave blues. Ah, bellissimo. Sai, io ho passato molti pomeriggi a studiare a soli di blues di Eric Clapton, di Jimmy Page e vari di Muddy Waters, e c'è questa canzone Se saremo vivi noi. Mi è stato ispirato a questo arrangiamento un po' dai fatti di Haiti. Ah, ho capito. Non so, stavo vedendo il telegiornale e non so perché ho pensato a questa mia canzone, perché il ritornello dice Se saremo vivi noi, non lasciateci così. E così ho pensato, vedendo le vittime, mi è venuta in mente questa canzone con un arrangiamento più sofferto, più blues. E stasera suono questa canzone. Adesso lo sentiamo, ok. Rock Wave, l'onda del rock. La sentinella sta perdendo del tempo mentre si slega quelle scarpe a metà. Già mattino nella valle dei sogni, è già mattino anche giù in città. Ora partiamo per le nostre sudate, ora è morte di un lavoro e chissà. Se saremo vivi noi, non lasciateci così. Abbiamo perso anche la realtà, abbiamo perso tutto per l'onestà, abbiamo perso tutto per l'onestà. Cerchiamo sempre la risposta nel vento, speriamo ancora di salvar qualcosa, mentre lontano stanno facendo fuori l'ultima amica di una notte fumosa. Non suona mai le campane per noi, nessun ti guarda negli occhi, sai. Se saremo vivi noi, non lasciateci così. Abbiamo perso anche la realtà, abbiamo perso tutto per l'onestà. Abbiamo perso tutto per l'onestà. Blu Radio, il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. L'hai proprio creata in chiave blues, poi un finale proprio tirato volutamente come il blues, proprio in chiave blues al 100%. È una cosa, sì, l'ho sentita. L'hai sentita così? Vissuta, sai, come dicevo, quelle immagini lì mi hanno trasmesso un po' questo dolore. E non so perché mi è venuta in mente questa mia canzone e l'ho associata. E l'ho associata al blues. Mm. E allora la propongo ultimamente. Dal vivo la fai così? La faccio ultimamente, la sto facendo in questa chiave blues. Ma con una chitarra acustica o una chitarra elettrica? No, con una chitarra acustica, così. Oh. Molto stile bluesman. Con un po' di un'accordatura, sì, con le corde abbassate, la tonalità del mi è diventata un re e crea questo effetto blues un po' particolare. Beh, blues, assolutamente blues. Il blues fa parte del tuo DNA, bisogna dirlo. Sì, ho sempre Muddy Waters e l'altra gente che ho sentito. Quando iniziavo a suonare la chitarra elettrica, che volevo fare chitarrista, ero molto attratto da questi chitarristi. Eric Clapton, Jimi Hendrix, Jimmy Page, dai chitarristi rock, che però devono molto a questa musica. Quindi a John Mayall tutti sicuramente. John Mayall, l'ho visto anche. L'hai visto dal vivo? È un grandissimo personaggio. L'ho visto. Com'è come personaggio John Mayall? L'ho visto dal vivo un paio di volte e veramente sono rimasto sbalordito perché aveva, adesso non ricordo se avesse già 70 anni, sì, all'epoca. Ma ha finito il concerto, è risalito sul palco perché la gente non voleva andare via, si è messo a suonare, la band era già nei camerini, lui è salito e ha preso un pianoforte e si è messo ancora a suonare un blues fino a che tutti non erano contenti. Quando tutti erano contenti è veramente un'energia pazzesca, è incredibile, una cosa bellissima questa. Quindi il blues, ma all'inizio di carriera, volevo chiederti questo, avevi suonato con qualche band così? All'inizio sì, suonavo, volevo fare il chitarrista solista, scrivevo canzoni ma le suonavamo con la band. Con la band. Avevo una band, facevo la chitarra solista e volevo fare il chitarrista solista, facevo i cori, ero proprio entrato nel personaggio del chitarrista solista che fa anche i cori, come questi idoli che ti ho citato. Certo. E allora, sai, quando 16, 17, 18 anni ci si divertiva anche molto andare a suonare, erano i primi concerti. Così si invitavano un po' tutti gli amici e si andava a suonare in questi locali, erano anche molto, molto belli, dei bellissimi ricordi, erano anche delle belle feste, le prime volte che la gente mi vedeva suonare e mi faceva i complimenti, non se l'aspettava, perché, sai, a una certa età suonano un po' tutti, poi smettono perché c'è chi va a scuola, chi va a lavorare, chi fa altro. E quando vai avanti la gente mi ha seguito, era sorpresa di tutto quello che facevo. Quindi il nostro duro già c'era all'epoca, insomma. C'era già all'epoca, sì, bene. Perché sai, a volte l'amico lo dice, c'è il passaparola, era che è sempre la cosa migliore, il passaparola. Perché assolutamente sì. Si fida sempre di più degli amici che magari della pubblicità o del sentito dire. L'amico, se ti fidi di un amico, quello che ti dice l'amico, io sono andato a vedere molti concerti tramite passaparola e devo ringraziare gli amici. Gli amici che mi avevano consigliato questi concerti. Certo. Ricordiamo un momento il tuo sito, ti ricordi? Allora, il sito ufficiale, sì. Io, è Riccardo Maffoni, www.riccardomaffoni.it. Poi potete anche... Cosa ci possiamo trovare? Nello allora, sito? Sul sito potete trovare un po' tutte le informazioni, si possono ascoltare degli ispezioni di canzoni, vedere i video, trovare comunque tutte le date del tour, c'è una biografia, ci sono una gallery di fotografie e ci sono le news, perciò quello è il mio sito ufficiale. Poi ci sono vari altri portali, che so, su MySpace mi potete trovare, anche su Facebook, sai, ormai internet è veramente importante. Allarga tutto. Allarga tutto. ho scoperto molti cantanti anch'io tramite internet. Tramite internet, e questo è il bello. Diciamo che questa è la parte bella. Poi per noi musicisti c'è anche l'altra parte che... Però io sono vedo le cose positive. Fa parte del, secondo me, del gioco. Questa nuova era, infatti, questo nuovo gioco che è iniziato con internet, cerco di vederla in maniera positiva, anzi, tutte le persone che riesco a contattare tramite internet veramente è impensabile. Se pensiamo a qualche anno fa, tutto quello che facciamo adesso con internet era impensabile. Anche stasera essere qua in radio, certo, era veramente via internet vedere, ci fanno sentire, ci sentono, ci vedono dappertutto. È veramente una cosa sorprendente. Il disco c'è ancora in commercio, si trova ancora? Il disco è ancora in commercio, tutti e due i dischi si possono trovare, li potete, visto che parlavamo di internet, certo, si possono anche trovare su iTunes. Quindi scaricate i brani pagandoli, chiaramente, o nei vari store che si trovano su internet, veramente adesso ce n'è di più, ci sono tanti sistemi, sono c'è tutto per trovare la musica. Forse adesso ci sono troppe cose, sai, una volta si andava al negozio e basta e si comprava e basta. Adesso si può di tutto, puoi andare un po' da tutte le parti, esatto. E io proporrei, non so se sei d'accordo, un pezzo da un disco e okay. poi suoniamo ancora, ok, poi facciamo qualcosa. Che pezzo hai scelto, o dal primo o dall'ultimo, a tuo piacimento? Ma allora mettiamo qualcosa del primo album, sì. Ultimi Eroi, ok, perché è la traccia 4 del primo, la traccia 4 del primo album, e così andiamo anche ad esplorare ancora una volta il primo album, okay. È una cosa positiva, infatti, secondo me, ok? Cosa dici? Infatti io a volte, sai, quando ho lavorato molto al secondo album, ho preso uno spavento, perciò quando lavori a un album non è che dimentichi quello che hai fatto o quello che farai, però sei talmente dentro che vivi quell'album lì. Però una volta finito tutto il percorso, quando ho cominciato a preparare il tour, è stato bello riascoltare queste canzoni che cominciavano ad avere qualche anno, certo, e sentirle a volte, sai, le canzoni le vivi una volta scritte, diventano di tutti, e io cerco di ascoltarle come un ascoltatore esterno, non come canzoni mie, cerco di veramente di viverle in un'altra maniera, e a volte così mi diverte ascoltare canzoni cercando di estraniarmi, quasi come se sono uno che la sta ascoltando per la prima volta. Cioè, fammi sentire cosa dice questo. Chiaramente. Cioè, interessante o no? Ok, sentiamo adesso. Allora. Rock Wave, l'onda del rock. We'll fari spenti nella notte, l'individuo che amava il rischio, la vodka e le maglie strette. E forse sabato da qualche parte, e forse festa per qualcuno, o pietà tutto serio Tiberio, anche se sa che non lo ascolta nessuno. E mentre un giorno nuovo sta per entrare nelle nostre vite, mi appresto a saltare la porta e a cercare nuove uscite. È per noi, è per noi questa vita da ultimi eroi. È per noi, è per noi questa vita da ultimi eroi. È per noi, è per noi che forse indietro non ci torneremo mai. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Riccardo, che bello, ma abbiamo finito. Sono 23:57. Questa cavalcata meravigliosa fra la tua musica, i tuoi discorsi, i tuoi collegamenti. Hai dato un quadro totale della tua attività sonora. Questa è cosa positiva, secondo me. Per me è un piacere essere qua, soprattutto a fare una trasmissione, come dicevamo prima, microfoni spenti, è una trasmissione, mi sento molto a mio agio, e allora è bellissimo, si può suonare dal vivo, si ascolta i pezzi, è più, diciamo, quasi una chiacchierata. Sì, una conversazione, una conversazione. Una conversazione amichevole, sì, che esattamente. Alla fine deve essere quella. È lo spirito di Rock Wave, è proprio la, questo. La domanda, la risposta. No, assolutamente no. Confrontarsi, sì. Parlare delle passioni. Alla certo, fine l'artista, perché l'artista deve essere a suo agio, come fosse un club così tra amici, si discute, si suona, si canta, si pensa, si evolve. Ci si evolve, sì, esattamente. Ok, abbiamo finito questa cavalcata. Devo ringraziarti, Riccardo. Ringraziamo anche la Sunshine che ti ha portato qua. E grazie a voi, grazie. Questa è la difficoltà anche per venire qua. Ci sono stati dei problemi, però sono problemi che si risolvono. Sono problemi che fanno parte di questo lavoro. Viaggiando, si sa che le autostrade, le situazioni a volte sono un po' difficili, ma se fossero, ma se non sono problemi, sì, risolvibili. Certamente. Senza... Ricordiamo il tuo ultimo album, si chiama Ho preso uno spavento, aspettando il nuovo che arriverà fra qualche mese. Si trova regolarmente come precedente, storie di chi vince la metà nei negozi o qualche altro sistema, come abbiamo citato prima. O magari venendo a vedermi anche dal vivo. O magari venendo a vederti nei concerti, esattamente. Scoprire l'artista dal vivo è sempre la cosa migliore, penso. Penso che certamente condividerai con me questa... parere, che conosce l'artista dal vivo sempre in modo è migliore. La cosa migliore che esista, conoscere l'artista dal vivo. Allora adesso abbiamo deciso di fare due pezzi live, così concludi oltrepassando la mezzanotte a tuo piacimento. Due pezzi live, uno più breve e uno più lungo per concludere. Allora il primo che faccio è l'ultimo singolo di questo album, Ho preso uno spavento, Hey Baby Too. Benissimo, e concludiamo così, facendo questi due pezzi live. Okay. Grazie di tutto. Grazie a voi. Mercoledì grazie prossimo avremo un altro musicista di Verona, sarà Enrico Nascimbeni col nuovo album. Buonanotte a tutti e buonanotte con Riccardo Maffoni e la sua musica dal vivo. Grazie a tutti voi, è stato un piacere e spero di tornare col prossimo album. Ma non c'è problema, noi siamo sempre qua. Volentieri. Okay? Grazie di tutto. Rock Wave, l'onda del rock. stasera così. Sono solo qui coi miei pensieri, coi miei problemi. Vorrei parlarti, vorrei spiegarti che è difficile per me, anche il facile. E invece in quei momenti, chissà che cosa pensi, chissà come ti senti, e forse sembro un po' banale mentre ti dico dai lascia stare, baby tu. In fondo oggi mi vuoi di più, e lasciati baciare ancora un po', non fermarmi no, ehi baby tu. In fondo oggi mi ami di più, e lasciati baciare ancora un po', non fermarmi no. I giorni passano, gli errori restano, non pensare che sia pazzo per via di quello che faccio. Ti ricordi quando stavamo andando al lago quella sera e la luna era piena? Hai detto quello che provo per te, non so bene che cos'è. Ho bisogno ancora di tempo, l'amore è un fiore e cresce lento, cresce lento. Hey baby tu, in fondo oggi mi vuoi di più, e lasciati baciare ancora un po', non fermarmi no, ehi baby tu. In fondo oggi mi ami di più, e lasciati baciare ancora un po', non fermarmi no. Baby tu, sei sha-na-na-na, hey baby tu, sei sha-na-na-na, na sha-na-na-na, na na na. La domenica passava più lunatica di quanto volessi, i miei errori ricadevano sui miei pudori mai commessi. Mentre aspettavo Lucinda mi facevo qualche bicchiere di troppo. Nessun problema, lei mi riconosceva tra la folla per la mia andatura da zoppo. E il resto censuro, il resto vi censuro, ho una vita da rifare, Lucinda non mi lasciare. e il resto censuro, il resto vi censuro. Ho una vita da rifare, perché non mi vuoi aiutare? La mia auto è nuova, danzava al ritmo di un rock da lavanderia. Lucinda aveva perso tutte scommesse, ma diceva che vuoi che sia. Poi veloce mi dirigevo al primo rivenditore, sali e tabacchi. Così preso da nevrosi di sigarette, mi rifornivo con quattro pacchi. E il resto censuro, il resto vi censuro. Ho una vita da rifare, Lucinda non mi lasciare. E il resto censuro, il resto vi censuro. Ho una vita da rifare, perché non mi vuoi aiutare? Ci stavamo per ammazzare l'altra notte su quella strada di campagna. Sono saltati fuori dei polli impazziti, siamo finiti col culo nella paglia. Lucinda mi ha inondato di minacce e mezze denunce per via dell'anello. 7 milioni in diamanti finiti chissà dove, ma chi se ne frega, questo è il bello. E il resto censuro, il resto vi censuro. Ho una vita da rifare, Lucinda non mi lasciare. E il resto censuro, il resto vi censuro. Ho una vita da rifare, perché non mi vuoi aiutare? Ora sto a guardare una partita da una TV in una vetrina giù nel centro. Ho perso il mio interesse alla vita, sono vittima del mio stesso sgomento. Sì, ogni tanto la vedo ancora Lucinda, ma tutto è finito, completamente andato. È strano, ma ciò che sembrava amore è diventato un brutto ricordo invecchiato e sciupato. E basta guardarmi un istante negli occhi per capire il mio stato di depressione alterato. E il resto censuro, il resto vi censuro. Gli ha battuto sfiduciato, sempre più triste opaco. E il resto censuro, il resto vi censuro. Gli ha battuto sfiduciato, peccatore senza peccato. Grazie a tutti, ciao! Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock.